Dopo il successo dello scorso anno, torna a grande richiesta il reality show Ho dato il cervello in affidamento. In esclusiva per gli entusiasti ascoltatori di Radio Meridiano 12, i provini dei primi due candidati. Destino ha voluto che fossero padre e figlia. Ascoltiamoli. Nome? Meniguchi Bruno. Pamela. Perché vuoi partecipare al nuovo reality? Ma che ne so, mi ha portato qui mi via, sta mezza scema. Beh, per entrare nel mondo dello spettacolo. Parlaci di te. Proprietario di un centro carni in via Cassia 1231 che gestisco felicemente con mia moglie, una via sola, Pamela, che è il cuore di papà. Pamela, ho detto prima, 27 anni, receptionist in un centro estetico che però è più un solarium. Grande passione per l'aerobica e l'acqua gym, fidanzatissima con Alessio, che può stare tranquillo perché confronto a Tarigone è pure meglio. Sogni per il futuro. Ma che mi fia se sposa con quel ragazzetto che pare mezzo scemo, però alla fine gli voglio bene. E crociando le dita godessa la pensioncina con mia moglie. Ma io mi sembra di averlo già detto che vorrei, insomma, entrare nel mondo dello spettacolo e sempre però al mio fianco Alessio. Progetti per l'estate? Signorina, sono 25 anni che vado a Torvaglianica con mia moglie. Ma io, al contrario di mio padre, a me mi piace girà. L'altro anno Palma de Mallorca, quest'anno senza dubbio Tenerife. Ultimo concerto al quale sei stato? Claudio Villa 1977, Teatro Brancaccio. Gigi D'Alessio, ho seguito tutto il tour, non mi poteva mancare certo la tappa de Napoli. Film preferito? Anche gli angeli mangiano fagioli. 3 metri sopra il cielo, non tanto per... cioè, pure per film, per carità, però perché... cioè, io ho sempre chiesto, Alessio spero, insomma, mi piace tanto l'idea del cartellone che lo dicono tutti. Personaggio televisivo preferito? Mario Riva, poraccio. Ilari Blasi. E citando il grande Marzullo, la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere? Perché ti dovremmo prendere? Ma che me frega, a me ha portato mia figlia. Ma poi che decidi te, non ho capito, non vedi questa? Ah, perché? Perché penso una ragazza carina... mi piacerebbe partecipare a sto programma perché penso che possa essere una valida modo per entrare nel mondo dello spettacolo. Sei anche tu simpatico, intraprendente, esuberante e desideroso di entrare nel favoloso mondo dello spettacolo? Ti senti anche tu 3 litri in una bottiglia da 1,5 litri, come citava qualcuno? Partecipa anche tu alle selezioni per il nostro reality. Chiama il numero 555...